Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, seconda parte dell'intervista a Carsten Beck, stasera economista, analista del Copenhagen Institute for Future Studies, che è un think tank con sede in Danimarca e centro di ricerca internazionale tra i più autorevoli, che è specializzato in analisi di scenari e soprattutto nell'identificare i grandi trend, i megatrend del futuro. Carsten Beck in particolare si occupa di lavoro e di formazione ed è di quest'ultima che parleremo stasera. Come vedremo, il tema è soprattutto quello dell'utilizzo della rete come perno di un nuovo sistema di formazione basato su delle piattaforme informatiche che oggi sono in corso di realizzazione e sperimentazione, come quella che per esempio porta avanti il progetto Book in Progress di cui abbiamo parlato qualche mese fa. Sentiamo allora che cosa ci racconta il professor Carsten Beck a proposito del modo in cui in futuro cambierà il modo di imparare. Se guardiamo ai trend che sono presenti nel mondo della formazione, dalle scuole primarie alle università, dalle business school ai corsi di formazione, vediamo in arrivo un'altra rivoluzione. Anzitutto si diffonderanno molte modalità diverse di formazione, ma soprattutto, grazie alla diffusione di alcuni software che sono vere e proprie piattaforme didattiche informatiche, la formazione sarà molto più digitale e molto più personalizzata, tagliata a misura sul singolo individuo. Sfortunatamente, se guardiamo le classi scolastiche che troviamo in Europa, sia nel nord che nel sud, troviamo quasi sempre la tradizionale figura dell'insegnante che tiene una lezione frontale e interroga. E anche quando accade che si usino dispositivi digitali, di solito la formazione è tradizionale. Insomma, non ci siamo. Nel futuro immediato che cosa dobbiamo però aspettarci? Nel prossimo futuro assisteremo certamente alla nascita di molti nuovi strumenti informatici e piattaforme didattiche e al miglioramento di quelle che già ci sono. Strumenti che aiuteranno e daranno sostegno agli studenti nel proprio percorso individuale di formazione. Oggi, con 20 studenti diversi e un solo insegnante o istruttore a fare tutto, è esclusa qualunque possibilità di formazione personalizzata. Invece, una piattaforma didattica potrebbe tenere conto di tutta una serie di dati sui singoli studenti, formazione di background, stile di apprendimento, hobby, interessi, eccetera, ed elaborare un percorso di formazione specifico ed ottimale. Attenzione, non per questo gli insegnanti spariranno, però avranno una funzione diversa di integrazione del lavoro degli studenti. Inoltre, saranno sgravati da una serie di compiti che oggi li tengono occupati per molto tempo e che in futuro potranno essere facilmente automatizzati. Ecco, parliamo degli studenti, professore. Avranno bisogno delle stesse competenze di oggi oppure di competenze diverse? Per esempio, fino a pochi anni fa era difficile trovare informazioni, ma poi quando le si trovavano erano sempre informazioni strutturate e piuttosto affidabili. Oggi l'informazione grazie al web invece è abbondantissima, è istantanea, però poco strutturata e non si sa mai quanto affidabile. Ecco, in questo contesto servono le stesse abilità? Lei solleva una domanda importante. In effetti, con l'invenzione di Internet e con la possibilità di consultarlo in qualunque momento grazie ai dispositivi mobili, c'è meno bisogno di imparare a memoria. Tuttavia, c'è bisogno di altre abilità, come sapere dove cercare e ancora, per le ragioni che diceva prima, una certa sensibilità per capire se quello che si ha davanti è corretto o sbagliato. Insomma, serve un quadro mentale dei confini tra ciò che ha senso e ciò che non ne ha. Perciò un bagaglio di competenze non molto diverso da quello tradizionale. Però sarà più importante, diciamo così, saper cercare che ricordare informazioni. Sì, anche se non ho una buona risposta a questa sua domanda. Invece al Copenhagen Institute si sta riflettendo sull'aspetto della fiducia, come potersi fidare delle informazioni che si trovano in rete. Questo è un vero dilemma. D'altronde, anche se prendiamo la letteratura scientifica, con tutti i suoi processi di controllo e di peer review da parte di professori universitari, vediamo che anche lì è pieno di errori e di informazioni sbagliate. Il problema è che nemmeno oggi possiamo fidarci dell'informazione. Perciò una delle sfide del futuro sarà proprio trovare un modo per valutare l'affidabilità dell'informazione anche scientifica, e ritengo che sarà un modo molto diverso da quello attuale delle peer review. Penso che si dovrà fare affidamento sul fatto che la maggior parte della gente è per bene e può contribuire in modo disinteressato, come avviene già oggi per quello che riguarda il mondo Wikipedia. È tutto, a domani!